Conversazioni con i nipoti che verranno. Ecco il mio segreto, ed è piuttosto semplice. Possiamo vedere solo con il cuore. Tutto ciò che è essenziale è invisibile agli occhi. Antoine de Saint-Exupéry, il piccolo principe. Dedica. Alle guide e ai maestri, che con amore infinito accompagnano il nostro cammino. A Bibi dalle molte vesti, di nonna, mamma, e amica su Gaia, e ora nostra guida celeste. A Cecilia amatissima, mia metà, mia ancora e mie ali, che sa quando è l'ora di togliermi la coperta di Linus, e quando donarci il calore di un abbraccio d'amore. A Silvia, nostra sorella celeste. Sei tu che hai preparato la strada per la nostra crescita, ascoltando e traducendo con amore e pazienza gran parte delle voci delle guide. Ai nostri figli amatissimi, ad Alia e a Kim, e a tutti i figli e nipoti che verranno. I sogni son desideri. Introduzione. Pim ha 65 anni, portati molto bene. Pur essendo in ottima forma, sa che il tempo che gli rimane da vivere non è infinito. Questa consapevolezza è la causa di uno dei suoi più forti desideri, provare la gioia di diventare nonno, conoscere Alia e Kim, e poterli accompagnare, anche se solo per un piccolo tratto, nelle esperienze delle loro vite. Chi sono Alia e Kim? Sono i nipoti che verranno. Pim ha incontrato Cecilia, la sua metà, nel mezzo del cammino della sua vita. Gli spiriti meravigliosi che Cecilia e Pim hanno accolto come figli sono ancora giovani. I loro figli non ci sono ancora. Arriveranno in futuro, probabilmente quando Pim avrà più o meno 80 anni. Quindi le probabilità di un rapporto stretto e profondo con i nipoti che verranno sono molto basse. Si dice però che le vie del Signore sono infinite. Forse è così anche per i desideri, che quando sono forti e insistenti hanno una loro capacità di creare persino quello che sembra impossibile. Questo libro racconta come si realizza il desiderio di Pim. Gli incontri con Alia e Kim avvengono davvero, in sogno, e sono profondamente sorprendenti e molto più reali e belli di quello che Pim avrebbe mai potuto immaginare. E, sorpresa tra le sorprese, invece di essere lui a preparare Alia e Kim alla vita che dovranno vivere, sono loro a offrire a Pim una visione celeste della vita terrena.